Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Siamo un po' di meno che Giovanni Pascoli. Oggi tranquilli tutti, non si interroga nessuno sulla poetica del fanciullino. Sempre di domenica. Ma come gliel'ho servita, dottor Zegovesi? Su un piatto d'argento la Nicola è stata un'alzata, un'alzatina, guardi, tac, e ricordiamo. Pam, pronta schiaccia. Ma buona domenica, bentornati a questa nuova puntata della Bufala in Tavola, un menù ricco e colorato per oggi. Andiamo! Rosa è come il nastro rosa, ormai è diventato il simbolo del mese di ottobre dedicato alla prevenzione al senno. Proprio di prevenzione femminile parleremo oggi, perché come sappiamo e come diciamo spesso la prevenzione inizia a tavola, e abbiamo quindi chiesto ad una grande esperta di sedersi proprio a capo tavola, di accomodarsi alla tavola della bufala in tavola. In linea con noi abbiamo Lucilla Titta, nutrizionista, ricercatrice e coordinatrice del progetto Smart Food dell'Istituto Europeo di Oncologia. Dottoressa Titta, buongiorno, buona domenica, benvenuta. Buongiorno e buona domenica a tutti. Dottoressa Titta, io inizierei a stuzzicare le amiche e gli amici all'ascolto con un saluto della cucina. Si fa così nei ristoranti stellati, e anche la bufala in tavola possiamo dire che è un po' stellata. Dottoressa Titta. Sono molto contenta di essere qua, intanto, per parlare degli ultimi aggiornamenti che riguardano la prevenzione del tumore al seno, che mi sta molto a cuore e di cui tutti gli anni ad ottobre parliamo ampiamente. Intanto voglio stuzzicarvi con un'idea di secondo un po' diversa dal solito, e quindi vi consiglio il purè di legumi, come il classicissimo purè di fave con cicoria, ma anche utilizzare i ceci, quindi fare hummus, sempre associati alle verdure o lenticchie. Ecco, e c'è una ragione, vero, dottoressa Titta? Sì, c'è una ragione, perché il comportamento più protettivo in assoluto per le donne è quello di rimanere normopeso, e utilizzare i legumi come secondo, che sono fonte di fibre e di sali minerali, è un buon comportamento, perché saziano, nutrono e quindi possono accompagnarci durante la settimana anche 2 o 3 volte, perché no, come secondo piatto. Allora, il piatto di oggi alla bufala in tavola da cui partiremo è purè di fave con cicoria. Voilà, e intanto chissà se questo piatto piacerà al nostro prossimo ospite, perché noi accanto alla prevenzione facciamo sedere la ricerca. In linea con noi abbiamo il professor Giovanni Scapagnini, ordinario di nutrizione umana all'Università degli Studi del Molise e vicepresidente della Società Italiana Nutraceutica. Buongiorno professore. Buongiorno. Professor Scapagnini, possiamo dire, lo abbiamo già sottolineato tante volte e anche di recente insieme a lei, che l'alimentazione è uno dei fattori che promuovono la salute. Direi che se la salute fosse una ricetta, l'alimentazione sarebbe uno di questi ingredienti. Beh, assolutamente sì, e questo vale moltissimo nell'ottica del mantenimento della salute e quindi nella prevenzione rispetto alle patologie, sicuramente quelle croniche dell'invecchiamento, ma è un tema che riguarda moltissimo anche il cancro, visto parlavamo prima del cancro al seno. Sin dai primissimi studi epidemiologici, il famoso Seven Country Study, si è visto che alcune tipologie di dieta, in particolar modo l'aderenza alla dieta mediterranea, per esempio, sono potenzialmente una reale strategia per ridurre il rischio di incorrere in malattie come quelle cardiovascolari, dove diciamo, si è concentrato maggiormente l'interesse di questo studio in particolare. Ma poi negli anni si è capito che questa azione protettiva era veramente molto solida anche per malattie come le malattie neurodegenerative e il cancro. Professor Scapagnini, dieta mediterranea è il vero investimento per la nostra salute, ma che cos'ha di particolare la dieta mediterranea rispetto agli altri stili alimentari, ad esempio quello orientale, quello giapponese, che interessa e ha interessato anche, ha catturato l'attenzione dei ricercatori? Beh, quello, diciamo che la dieta orientale non è così male, come del resto anche quella viene definita la dieta nordica. Sono caratterizzate tutte dalla alta presenza di frutta e verdura e dalla alta presenza di grassi monoinsaturi o poliinsaturi. E in questo senso cosa vuol dire? Cioè pochi grassi saturi di origine animale. E in questo senso la dieta mediterranea ha un ingrediente che è veramente straordinario e che probabilmente è l'elemento che maggiormente la differenzia dalle altre diete, dando quel plus in più anche in un'ottica di prevenzione. Ed è il nostro bene amato olio d'oliva. L'olio extravergine d'oliva è realmente un ingrediente straordinario, unico della dieta mediterranea storicamente, ed è stato associato sempre di più a azioni preventive molto specifiche sulle malattie che abbiamo detto prima. Quindi il consiglio, professore? Abbondare di olio extravergine d'oliva, purché sia extravergine d'oliva, è come si suol dire, macinato a freddo e quindi ricco dei principi attivi che lo caratterizzano. Sicuramente il grasso che fornisce l'olio, cioè il monoinsaturo, l'acido oleico, è un alimento importante, ma non dimentichiamoci che l'olio d'oliva è ricco di polifenoli straordinari che derivano dall'oliva e che sembrano essere fortemente associati alla sua azione antinfiammatoria e di prevenzione di alcuni tipi di malattie. I nomi sono complessi, il più importante di tutti è l'idrossitirosolo. Ecco, questa molecola sembra veramente avere delle proprietà straordinarie nell'ottica di mantenere la nostra salute. Professor Scapagnini, grazie per essere stato con noi. Abbiamo fatto con lei un piccolo spuntino per ricordare quali sono le evidenze della ricerca. Noi continuiamo naturalmente a parlare di prevenzione a tavola insieme alla dottoressa Titta. Professor Scapagnini, a prestissimo. Sì, a prestissimo, grazie. Dottoressa Titta, lei è pronta? Sì, prontissima. Allora, lei si fermi lì perché lei tanto che si riscalda, facciamo un po' di riscaldamento, intanto c'è Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Manossi in redazione, insomma siamo tutti qui, chiamate gli amici, chiamate le amiche, mi raccomando, rimanete in contatto con noi attraverso i social, scriveteci quali sono le scelte che fate quotidianamente per investire in salute. Ci sono degli alimenti che privilegiate, degli alimenti che tentate di in qualche modo di ridurre, di contenere? Scriveteci, noi siamo qui e ricordate sempre la nostra iniziativa E adesso cosa mangio, ma ne parliamo tra poco. La bufala in tavola. Siamo nel cuore del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno e di prevenzione parliamo oggi con la dottoressa Lucilla Titta, che è in linea con noi, che ci ha portato uno splendido piatto che racchiude un po' in sé tutti gli ingredienti che dobbiamo portare più spesso sulle nostre tavole. Ne parleremo, la dottoressa Titta ci ha suggerito per oggi una purea di fave con a fianco una bella cicorietta saltata. Ci ha anche spiegato la ragione di questo di questa sua scelta nutrizionale. Ma dottoressa Titta, il tumore al seno, lo sappiamo, è una patologia complessa, multifattoriale, il cui rischio non è determinato solo da fattori non modificabili, penso all'età, al sesso, alla genetica, ma anche da fattori che ogni donna è in grado di modificare, come l'alimentazione e lo stile di vita. E lei oggi ci aiuterà a capire quali correzioni è importante fare. Assolutamente, è molto importante intanto capire che sono poche le cose che sono chiare rispetto a stile di vita e prevenzione di tumori. In realtà in rete troviamo mille informazioni che non hanno una base scientifica, ed è necessario consultare e informarsi da istituzioni scientifiche che ci possano garantire appunto la autorevolezza, insomma, delle informazioni e delle correzioni che andiamo a fare. Dicevo, sono poche, in realtà sono tre fondamentalmente i fattori che hanno un ruolo decisivo nella prevenzione del tumore del seno, specialmente nella fase di postmenopausa, ma anche prima, e sono il consumo di alcol, il sovrappeso, obesità e l'attività fisica. Inoltre poi abbiamo l'allattamento al seno, che è un comportamento protettivo chiaramente per le donne che appunto partoriscono, che quindi hanno la possibilità di allattare al seno. Lei al primo posto, dottoressa Titta, ha messo proprio l'alcol. E, sì. Ecco, ci sono tanti fake, leggende metropolitane su alimentazione e tumore al seno, che puntano ad esempio il dito su latte e soia. Poche invece che evidenziano l'importanza di controllare il consumo di alcol. Sì, è una cosa che noi veramente, che lavoriamo nella comunicazione, nella ricerca epidemiologica, non ci spieghiamo come è possibile che siano nate tutte queste informazioni che non hanno base scientifica su non consumare latte, su non consumare prodotti a base di soia, e invece sull'alcol assolutamente niente. È una cosa molto strana, ma in realtà invece che il consumo di alcol abbia un ruolo nell'insorgenza di tumore al seno e di altri sei tipi di tumore è assolutamente una informazione consolidata da tanti studi scientifici, mentre invece il fatto che si beva latte o si consumino prodotti a base di soia possa rappresentare un fattore di rischio per questo stesso tipo di tumore, su questo non esistono le stesse ricerche e dati convincenti, anzi ci sono dati molto confliggenti e non ci sono raccomandazioni da parte degli enti internazionali di ricerca sul consumo di questi alimenti relativi al tumore al seno. Quindi assolutamente ci tengo, veramente tutti gli anni sottolineiamo questa cosa. Se si beve alcol, non superare per le donne un'unità alcolica al giorno, quindi un bicchiere di vino piccolo o una birra piccola, e comunque per la prevenzione dei tumori è meglio non bere alcol. Dottoressa Titta, noi alla Bufala in Tavola sottolineiamo spesso che mangiare bene significa nutrirsi meglio, e tutto questo porta anche a mantenere o a recuperare il peso forma, che è un fattore protettivo, cioè se vogliamo girarla al positivo, perché lei tra i fattori di rischio ha proprio parlato di sovrappeso e obesità. Possiamo proprio dire che è il comportamento più protettivo in assoluto per difenderci da tante patologie croniche, ma anche da tanti tipi di tumori, compreso il tumore al seno. Quindi la cosa più protettiva che possiamo fare è rimanere normopeso. Però definiamo che cos'è questo normopeso, perché tutte noi abbiamo un po' così delle concezioni del nostro peso che possono variare a seconda dell'estetica, eccetera. Invece esiste un modo per capire se si è normopeso, è il calcolo dell'indice di massa corporea, che deve essere compreso tra 18,5 e 24,9, e si calcola dividendo il peso in chili per l'altezza in metri al quadrato, ma in tanti siti potete trovare un calcolo, diciamo, automatico. Sì. Ma per dare un'idea, insomma, di che cos'è questo intervallo di normo peso così protettivo, possiamo dire che una persona che comunque è alta 1,70, io sono alto 1,70, quindi riporto sempre il mio... però è altina, dottoressa Titta. Sono altina, sì. È una donna altina. Io sono più bassetta. Comunque può pesare tra i 55 e oltre i 70 kg rimanendo nel normopeso. Quindi questo intervallo di normopeso non è così difficile. Più difficile, come ricordavi, è rimanere nella circonferenza vita. Eccola. Che invece è una misura un po' più restrittiva, perché 88 centimetri per le donne, misurato sopra due dita sopra l'ombelico, è già, voglio dire, nel post-menopausa una misura più difficile da raggiungere. E se poi noi lo accompagniamo con uno stile alimentare più sano, come quello che voi suggerite anche sul vostro sito, con le iniziative di Smart Food, in cui date i 10 consigli per la salute della donna. Io chiuderei questa chiacchierata con questo decalogo. Molti dei punti li conosciamo, ma ripetiamoli, facciamo questa così carrellata, 10 consigli perché ciascuna amica all'ascolto li memorizzi, li interiorizzi e cerchi di metterli in pratica. Dottoressa Titta, abbiamo lei al primo posto, infatti voi allo smartphone avete messo lo stile di vita attivo. Ecco, 30 minuti al giorno ad un'attività ricreativa sportiva. Poi il secondo punto, ne abbiamo parlato, è di mantenere il normo peso. Lei ci ha dato anche, ci ha spiegato perché. Sul consumo di alimenti vegetali, che è il terzo punto, lei ha suggerito in apertura questo splendido piatto, che è uno tra i miei preferiti, che sono la purè di fave con la cicoria. Quindi il consumo anche di frutta e verdura, legumi per fare il pieno di fibre, che sono assolutamente riconosciute dalla ricerca come amiche della nostra salute e anche svolgono un effetto protettivo. Dottoressa Titta. Sì, assolutamente. Appunto, quando si parla di dieta mediterranea, l'abbiamo sentito prima, si parla di frutta, verdura, oli, frutta guscio, i legumi rimangono sempre un po' così detti ma poi poco praticati. Invece adesso non ci sono più scuse, li troviamo in tutti i modi, pronti, subito da mangiare, comunque cuociono in fretta, quindi ecco, il nostro piatto deve essere almeno per i tre quarti di origine vegetale. Questo e anche il girovita si sfinerà. Questa la butto e lì. E anche il girovita, ecco, si sfinerà. Dottoressa Titta, leggo, quarto punto, mantieni in salute le tue ossa. Anche questo è importante? Importantissimo. Sì, le donne sappiamo che è un po' il tallone d'Achille, è la densità ossea, il raggiungimento del picco osseo. Quindi è importante avere sempre presente che il calcio nella dieta deve essere in quantità sufficiente, la vitamina D, l'esposizione al sole e l'attività fisica un'altra volta. Dottoressa Titta, intanto ci sono dei suggerimenti per limitare il consumo di carni rosse, carni lavorate. Sappiamo che insomma appunto bisognerebbe dare spazio alle proteine vegetali per ridurre un po' le proteine di origine animale. Naturalmente anche ridurre gli alimenti ad alta densità energetica, merendine, dolci, snack, salate, bevande zuccherate e quant'altro. Abbiamo detto l'alcol, evita il consumo di alcol, oppure se proprio si vogliono consumare bevande alcoliche si raccomanda di berle solo occasionalmente. Al posto dell'alcol, e un altro punto fondamentale del vostro decalogo, è bere acqua. Perché bere acqua? Sì, sappiamo che è importante, perché? Ma perché l'avete infilata in questo decalogo? L'abbiamo infilata perché spesso si sottovaluta questa cosa, siamo sempre alla ricerca di bevande alternative all'acqua, invece l'acqua va benissimo, in più in certe parti d'Italia è molto ricca di calcio, quindi aiuta nell'integrazione dell'integrazione di calcio nella dieta, nella salute delle ossa, quindi non è scontato, è importante bere acqua, secondare sempre il senso di sete e tentare anche di anticiparlo bevendo a sufficienza. Un altro punto del decalogo è, l'abbiamo anticipato anche col professor Scapagnini, di prestare attenzione alla scelta dei grassi. Il professor Scapagnini ci ha parlato di questo farmalimento che è l'olio extravergine d'oliva e certo. Aggiungete, come spesso fate con i vostri incontri, il ruolo cruciale dell'informazione, cioè informati su quello che acquisti, leggere le etichette. L'etichetta è l'unico strumento, pensate, legale che deve corrispondere alla realtà del contenuto dell'alimento, quindi è molto importante leggere l'etichetta, molto più importante che leggere la pubblicità o altri tipi di informazioni. Quindi occhio. Occhio al sale, alla percentuale di sale, percentuale di zuccheri e percentuale di grassi saturi. Dottoressa Titta, ricordo il sito www.smartfood.io.it dove potete trovare, oltre che le notizie che arrivano dai centri di ricerca più accreditati, anche questo decalogo e anche ricette, tutto quello che può aiutarci a fare prevenzione. Dottoressa Titta, grazie, buona giornata, buona domenica, buona prevenzione. Noi ci fermiamo, ma c'è il nostro spazio che io intanto vi ringrazio perché avete accolto il nostro invito con grande entusiasmo. La domanda è: e adesso cosa mangio? Abbiamo messo a vostra disposizione un numero per rispondere a tutte le vostre domande, dove potete trovare lasciare un messaggio vocale, è il 335 830 4306. Bene, intanto se volete scriverlo, giusto il tempo per fare una pausa e ritornare subito dopo insieme. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La bufala in tavola. Siete tornati? Avete appuntato il numero per i vostri messaggi vocali? 335-830-4306. Lasciateci un messaggio. Tra noi potete scriverci anche una mail a obiettivosalute@radio24.it, perché io non mi ricorderei mai un numero che sento per radio, ma noi vogliamo rispondere alle domande più frequenti, anche un po' bizzarre, sul ruolo, sul rapporto tra salute e alimentazione. E intanto voi scriveteci o mandateci i vostri messaggi vocali, abbiamo una squadra di esperti pronti a rispondere, a commentare anche le vostre scelte, a dare dei suggerimenti, delle indicazioni. Partiamo. Eccoci qua, allora leggiamo il primo messaggio che ci è arrivato. Salve! Dall'inizio della quarantena ho iniziato una dieta bassa in carboidrati e zuccheri, alta in proteine e grassi. Tutti in famiglia abbiamo cambiato alimentazione e abbiamo perso una media di 10 kg. Hanno aggiunto anche, scrive la nostra ascoltatrice, olio di cocco per le difese, immagino per stimolare il nostro sistema immunitario. Allora, commentiamo questa scelta insieme al professor Luca Piretta. Buongiorno professore, buongiorno, ben trovato e buona domenica. Buongiorno Nicoletta, è una gioia sentirti. Oh, che bello! Gastroenterologo docente di allergie e intolleranze alimentari al campus biomedico di Roma. Allora, in tre righe la nostra ascoltatrice ci dà lo spunto per affrontare tanti temi. Una dieta ricca in grassi e proteine e povera in carboidrati e zuccheri non è che sia al top di quello che viene consigliato, perché ecco, un po' al contrario di quello che si sente dire almeno alla bufala in tavola, ecco, e non solo naturalmente. Non tanto per gli zuccheri semplici quanto per i carboidrati intesi come zuccheri complessi, che devono rappresentare, secondo i LARM, che sono i livelli di riferimento per l'assunzione dei nutrienti, dovrebbero rappresentare tra il 45 e il 60% del totale delle calorie, mentre i grassi dovrebbero non superare il 25-30%, quindi invertire questo rapporto non è che sia salutare, soprattutto se questo rapporto lo invertiamo utilizzando l'olio di cocco, che non è il top degli oli, perché se ne dica, primo perché è molto ricco in acidi grassi saturi, che sappiamo sono quelli che anche secondo raccomandazioni OMS sono quelli che dovremmo cercare di ridurre perché sono più a rischio di arteriosclerosi. E poi perché l'olio di cocco è tra i più poveri, tra gli oli vegetali, di acidi grassi polinizzati, che sono quelli. Però che questa scelta dell'olio di cocco è stata motivata, non so sulla base di quale informazione, evidentemente però da qualcuno è partita, che è stato scelto per aumentare le difese, così io immagino, immunità nei confronti delle malattie, e non ci ha detto altro. Comunque ha voluto inserire anche questo dettaglio, l'uso dell'olio di cocco. L'olio di cocco contiene acidi grassi, ripeto, saturi e non polinsaturi, che sarebbero quelli che semmai aiutano al sistema immunitario, quindi uno dovrebbe semmai rivolgersi ad oli ricchi in acidi grassi polinsaturi. Quello che ha più evidenze di dimostrazione è, come al solito, l'olio extravergine d'oliva, che è quello che ha più documentazione al riguardo, soprattutto per le popolazioni mediterranee, perché poi se parliamo dei paesi asiatici dove non bevono, dove non utilizzano l'olio d'oliva, è un discorso diverso. Perché evidentemente loro hanno... Senta, professore, però io immagino, lei dice tutto sbagliato, però insomma, è stato molto severo, però hanno perso 10 chili. E questo alletta e alluzza. Alletta, ma questo è un po' anche quello che purtroppo inganna, perché perdere peso e dimagrire non è la stessa cosa. Ora è chiaro che hanno dato un apporto di proteine elevato, quindi sicuramente non avranno perso massa magra se hanno fatto anche attività fisica, e va bene, ma la bilancia non può essere l'unico indicatore di salute. È chiaro che se una persona è in sovrappeso o obesa e dimagrisce siamo tutti contenti, però bisognerebbe dimagrire in salute. Probabilmente questo risultato di 10 kg in meno si poteva ottenere ugualmente facendo una dieta con dei bilanciamenti di proporzioni nutrizionali forse più idonei a uno stato di salute. Adesso che i chili li hanno persi, che cosa devono fare per ritornare ad uno stile di vita più... protettivo anche della salute? Allora, intanto abbassare subito la quota di grassi, perché assumere una dieta con prevalenza di grassi non è una dieta protettiva. La dieta protettiva è una dieta ricca in frutta e verdura, questo è cereali, questo è quello che sappiamo da tutta la letteratura scientifica internazionale, che ha ispirato le linee guida di una sana alimentazione, ha ispirato la piramide alimentare, tutti gli studi che negli ultimi 50 anni... Insomma, sono bisogna fatti. Restare sul classico, come si dice. Bisogna restare sul classico. I grassi vanno bene, ma in quantità consigliate 25-30% delle calorie, e preferibilmente grassi monopolinsaturi e pochi grassi saturi. Quindi si prende l'olio extravergine d'oliva, si sostituisce all'olio di cocco, per andare sul pratico. Assolutamente. Ecco, sì. Si ricomincia a mangiare gradualmente la pasta o dei cereali integrali, magari con un bel contornone, con un sugo ricco di verdura, così no? Si toglie la più grossa. Legumi, cereali integrali, frutta e verdura, questa deve essere la base dell'alimentazione. Io quello che vorrei sottolineare e approfittare di questa domanda dell'ascoltatrice è che quello che conta non è solo il perdere peso, importa come si perde peso, perché non necessariamente si fa una cosa positiva. Ritorniamo a fare, consiglio a queste persone di ritornare a fare una dieta bilanciata secondo i canoni della dieta mediterranea, con la quale si perde peso, si può mantenere il peso che hanno perso, ma con un equilibrio di nutrienti sicuramente più salutare. Dai, come dice la grande Rossella, cara amica, domani un altro giorno si ricomincia a mangiare anche in modo più vario, equilibrato e salutare. Professor Piretta, grazie per essere stato con noi, le auguro grazie una buonissima giornata. Grazie, un saluto a tutti. E tra le varie richieste, domande, commenti, ne abbiamo ripescato una che parla di pesce. Abbiamo in linea con noi il nostro dottor Giorgio Donegani, esperto di alimentazione e tecnologo alimentare. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, dottor Donegani, pesce fresco, pesce surgelato, pesce in scatola? Dal punto di vista nutrizionale non ci sono grosse differenze, nel senso che tra pesce fresco e pesce surgelato assolutamente la surgelazione è un sistema, è il miglior sistema di conservazione degli alimenti, proprio perché da un lato permette di averli pronti per lunghissimo tempo senza problemi e dall'altro però mantiene molto sia il gusto sia il valore nutritivo. Per quello in scatola poi dipende da quale pesce, nel senso che se noi pensiamo al tonno, che è il più consumato, in effetti durante la lavorazione, per metterlo in scatola, il tonno perde un po' di grassi, quindi è meno ricco di omega 3, rimane comunque un'ottima fonte di proteine, però ecco, diciamo, tra i tre, il fresco, il surgelato e la scatola è quella che insomma modifica di più il profilo nutrizionale. Però al suo vantaggio è che è subito pronto. Assolutamente, sempre pesce. Poi teniamo presente che noi, per quello che riguarda la scatola, mangiamo in genere il tonno, ma le sardine, gli sgombri in scatola sono prodotti altrettanto buoni, anzi poi vengono preparati anche in modi diversi adesso, grigliati. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma dottor Donegani, quindi insomma uno vale l'altro con leggere differenze, ma dottor Donegani, la dottoressa Titta che ha aperto con noi la trasmissione, nel decalogo che lo Smart Food propone per adottare dei comportamenti protettivi nei confronti del tumore al seno, ma anche direi nei confronti delle malattie in generale, suggeriva di leggere l'etichetta. Allora, ci impresti il suo occhio di esperto, che cosa dobbiamo leggere nelle etichette? Diciamo, in tutti e due i casi la provenienza è un'indicazione importante, nel senso che da dove ci piace che arrivi? Ma dipende dai pesci, evidentemente, perché alcuni non sono abbondanti nel Mediterraneo, perciò non li troviamo, però se pensiamo a dei pesci che possiamo trovare da noi, nel surgelato c'è una varietà molto maggiore che non nella scatola, sì. Se vengono dal Mediterraneo è una cosa buona per diversi motivi. Diciamo, il primo è ovviamente da un punto di vista della sostenibilità, un mare vicino, un mare nostrum appunto, che evidentemente quando prendiamo il pesce, quando viene pescato così, deve fare poi meno strada per arrivare alle nostre tavole, ma anche dal punto di vista, diciamo, della sicurezza alimentare rispetto a pesci che vivono in acque molto più fredde di quelle del Mediterraneo. Il pesce che viene dai nostri mari ha questo vantaggio, per esempio su alcuni contaminanti che sono comunque molto controllati. Però se pensiamo, per dire, alla diossina, nelle acque più calde ce n'è in genere una quantità inferiore, perché proprio per il calore tende a evaporare più facilmente, mentre se andiamo su pesci che provengono, che so, dal Baltico, dal mare del nord, mari freddi, in genere anche i pesci oceanici, con differenze, perché poi molto spesso il tonno così invece arriva dall'Oceano Indiano, che non è così freddo, però quando arrivano dai mari freddi, ecco, diciamo che questo contaminante, la diossina, fa più fatica a tornare in circolo attraverso l'evaporazione. Poi per il resto cosa leggere? Ovviamente leggere la data di scadenza, questo certo. È più importante per il surgelato che non per il lo scatolame, perché dura tantissimo. E soprattutto, oltre all'etichetta, ecco, diciamo, nei surgelati è vietato proprio per legge l'uso dei conservanti, quindi anche un'etichetta facile da leggere, però leggere le istruzioni per la conservazione, quello è importante. Idea, certo. Dottor Donegani, vede come l'ho trattata bene, tornerà? Ah, sicuramente. Bene, sono molto contenta. Grazie al dottor Donegani, che ritroveremo presto. Intanto voi continuate a scriverci a obiettivosalute@radio24.it. Invece, se volete lasciarci un messaggio vocale per chiedere adesso che cosa mangio, 335-830-4306. Bene, adesso noi ci fermiamo, facciamo posto per il nostro prossimo ospite, per aggiungere un posto, ne aggiungo uno, a tavola. Restate con me, a tra poco. Rivera è stato un calciatore completo. Mazzola era essenzialmente un uomo gol. Dicevano che era lento, però secondo me non era il suo modo di correre che lo faceva sembrare. Era un giocatore molto veloce. Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. naturalmente qui su Radio 24. La bufala in tavola. Un posto d'onore, super d'onore a questo ospite speciale che invitiamo alla tavola della bufala in tavola, con cui festeggiamo la domenica. È un trombettista, compositore, produttore discografico, artista poliedrico che dopo mille e una esperienza musicale diversa in tutto il mondo si dedica da qualche anno ai suoni del cibo. Quando piove sulla spiaggia dei ricordi, sento ancora quel motivo. Senza le parole viaggio attraverso l'avvenire, la tristezza dei momenti che io vivo adesso è solo un fragile confine. Sì, amiche e amici, in linea, mi piacerebbe averlo qua in studio, mannaggia, abbiamo Roy Paci. Ciao Roy, grazie, benvenuto. Ma grazie per la tua presentazione meravigliosa, Nicoletta, è un piacere stare qui, seppur in maniera, diciamo, in etere, però vicini, insomma, ecco, è bello. Lontani ma vicini. Lontani ma vicini. Ecco, senti Roy, intanto... Legare il suono al cibo è un'idea straordinaria. Come ti è venuta? Gastrofonia. Mi è venuta perché in effetti qualsiasi cosa che esiste in natura ha una sua vibrazione, quindi una sua frequenza di emissione nell'universo. Anche l'universo stesso ha una frequenza ed è probabilmente proprio il principio fondamentale su cui si basa tutta anche la mia esistenza, cioè la frequenza di vibrazione delle cose. In questo caso non è assolutamente una roba immaginaria o spirituale, ma è una cosa concreta, scientifica, e qualsiasi cosa che c'è in natura ha una sua, appunto, emissione di frequenza. Quindi mi sono accostato al cibo da tantissimi anni, direi quasi decenni, ma ho approfondito, quindi ho legato, diciamo, la parte più conoscitiva per quanto riguarda la parte, appunto, acustica e musicale, è quello che era una mia passione, appunto quella del cibo, e così ho iniziato a studiare le frequenze di ogni singolo ingrediente, quindi un piatto con più ingredienti in quel caso dava proprio un'armonia del piatto, che può essere anche dissonante, perché non è detto che sempre sia, diciamo, piacevole e consonante. Mi piace un sacco, ma qual è il piatto che dà quella, una musica, un'armonia che è più vicino al tuo sentire, al tuo modo anche di, no, di vivere la musica? Ma sicuramente un piatto dove ci sono degli elementi più mediterranei, perché... Eccola lì, la dieta mediterranea, vedi, va sempre, è un classico. Ma perché soprattutto, cara Nicoletta, il fatto che noi, non solo c'è la parte del sud Italia, ma tutta l'Italia ha una tale biodiversità che probabilmente al mondo, forse non tutti sanno, ecco, al mondo rimane appunto quella più importante insieme a quella dell'Amazzonia, cioè siamo un paese con una biodiversità talmente ampia e così anche ricca che qualsiasi elemento che noi mettiamo insieme potrebbe veramente creare anche delle belle onde armoniche nel nostro organismo, certo sempre con meticolosità nell'accostare un ingrediente all'altro e soprattutto senza mai esagerare. Senti Roy, tu cadi proprio, sei un po' come il cacio sui maccheroni, lasciami usare questa espressione, perché parlando con te, parlando di cibo e di musica, non posso fare a meno di coinvolgerti, così lo racconto anche agli amici che ci stanno seguendo, nella nostra iniziativa del sabato che stiamo portando avanti con l'Università Cattolica, il Centro Engage Minds Hub. Noi, insieme a un pool di psicologi e insieme alla professoressa Graffini e al grande Andrea Vitali, stiamo suggerendo agli amici dei piccoli, delle idee per affrontare meglio questa quotidianità che ci sembra un po' in salita, è nuova forse proprio per questo. E allora ogni settimana puntiamo su, tra virgolette, un ingrediente. Questa volta abbiamo chiesto proprio ieri ai nostri amici di indicarci qual è un brano musicale con cui amano iniziare la giornata per prendere la carica, ma anche di dirci qual è invece la musica, la canzone che serve a fine giornata a sciogliere un po', a dissipare un po' quelle preoccupazioni, quelle tensioni. Ma guarda, ci sarebbero tanti brani da tenere in considerazione, perché guarda, ne uso tantissimi. Sicuramente, visto la mia natura un po' saltellante da un paese all'altro, da un territorio saltellante all'altro, saltello come un canguro ormai da tantissimi anni. Sono un globetrotter, come qualcuno mi ha nominato, sì, della musica. E uno dei brani che più veramente mi caratterizza è forse Jump Around degli House of Pain, che è un pezzo che mi dà anche una carica non indifferente. Lo metto anche nella mia tracklist per quando vado quelle volte che vado a fare un po' di corsetta, no? Però ce ne sono tanti. Poi ci sono anche dei brani divertenti, non solo diciamo di autori esteri, anche di autori italiani. Sono legato ad un brano che mi cantava mia madre, perché mia madre è stata cantante negli anni 60 insieme a mio padre, avevano un gruppo di 60 molto molto divertente, e lei mi cantava sempre La vita è bella di Cocchi e Renato, che magari qualcuno di voi io me la ricordo, certo, che e la vita è bella, bella. Bellissimo. Allora senti, intanto portiamoci a casa queste indicazioni di Roy, perché se eccola lì. C'è chi soffre soltanto d'amore. Roy, noi ce le portiamo a casa questi tuoi consigli, perché se ti aiutano ad avere la carica per saltellare, no, di qua e di là, non possono che farci bene. Ma posso dirti una cosa, Nicola? Ma che bello che i tuoi operatori tecnici che ti stanno attorno sono stati così proprio pronti e veloci, anche perché sai, dopo un sabato sera di quelli pesanti, domenica stare così belli freschi e svegli è una cosa non da tutti. Questo lo voglio dire perché voglio spezzare sempre una lancia a favore di chi lavora dietro le quinte, soprattutto in questo momento difficile. Grazie. Quindi veramente bravi. Allora, noi abbiamo Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica, che ha un'aureola praticamente. Io pensavo fosse il neon, ma poi negli anni ho capito che invece ha un'aureola, perché ci segue spesso alla Bufala in Tavola, anche nel programma del sabato e non solo, naturalmente, e come tutti i tecnici di Radio 24 sono speciali, ma aggiungiamo anche un ringraziamento particolare a Laura Vanossi, che è in assistenza e in redazione. Roy, spero che tu hai ricevuto una laurea honoris causa dall'Accademia del Peperoncino. Sì, ma non solo, ho ricevuto anche attestati di merito dall'Accademia di Filetto, che è un altro peperoncino importante, e ho fatto anche dei talk all'Accademia di Peperoncino in Sud America, e me lo sono pure tatuato. Mi sono tatuato la molecola della capsaicina sull'avambraccio, quindi pensa quanto sono Un Roy Peperoncino. Roy, ti abbraccio, grazie per essere stato con noi. Ti abbraccio anche Carmelo Lauricella, naturalmente non vedo che sorride perché ha la mascherina, ma vedo dagli occhi che è molto soddisfatto. Grazie a Roy Paci, grazie, a presto, buona gastrofonia. Grazie, buona domenica anche a tutti quanti voi. Io scappo subito, vado a mangiare il ragù che mi sono andato a fare dal giorno precedente. Fantastico, un ragù, perché le tagliatelle di nonna Pina non le avrà fatte la nonna Pina, ma saranno squisite ugualmente. Grazie a Carmelo Lauricella, Laura Vanossi, io vi aspetto come sempre domani, subito dopo il GR delle 6, per iniziare bene una nuova settimana. Buona giornata. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.